guardami, io sono qua con tutto quello che vuoi dire. Sono pronto per metà e per metà starò a sentire. Poi non cambio mai, mi cambio tutti i giorni. Sta girando il secolo, facci almeno un video.